24 mattino. Giovedì mattina, una giornata naturalmente, benvenuti a 24 mattina. Facciamo tappa in Spagna per leggere i giornali questa mattina, ancora una volta per la precisione, per vedere quali sono i pezzi che vengono pubblicati in Spagna sull'Italia. E allora, per aiutarci in questa scoperta, in questo visti dagli altri, abbiamo scomodato questa mattina la corrispondente in Italia dell'agenzia EFE, Eulalia Blanchard. Grazie, buongiorno e benvenuta. Hola. Buongiorno, grazie a voi. Hola, buenos días. Buenos días. So due parole in spagnolo, quindi è giusto anche che le sfoggi. E volevo sapere da te, Eulalia, qual è l'ultimo articolo che hai scritto sull'Italia? Di cosa si trattava? Beh, l'ultimo articolo che ho scritto più che sull'Italia era successo in Italia, è la morte del giocatore dell'Espagnol, Daniel Jarque, che è morto qua sabato sera mentre era a Coverciano perché doveva giocare una partita contro il Bologna, Rimini, che alla fine è stata annullata perché per questa causa. Quindi diciamo che l'attenzione spagnola questi ultimi due giorni qua è stata soprattutto per sapere se potevano rimpatriare il cadavere o meno e cosa era successo. Chiaro. E quindi questo è un fatto che ha catturato l'attenzione naturalmente dei lettori spagnoli, un fatto tragico, drammatico. L'Italia in questo caso ha fatto da scenario. Quando invece l'Italia la fa da protagonista nei tuoi articoli, cosa ti chiedono i capi redattori centrali? Di quali settori ti occupi in particolare? Beh, qua l'agenzia lavoriamo un po' su tutti gli argomenti, non è che abbiamo una cosa assegnata a ogni redattore, però il fatto è che ultimamente è interessato tantissimo l'entrata in vigore della legge sull'immigrazione clandestina. E quali sono i commenti in Spagna? Beh, i commenti sono sempre sulla stessa linea, un po' come già quando si è annunciato questa idea, questa proposta di far diventare reato l'immigrazione clandestina. Allora già c'è stato un po' di conflitto anche tra i governi di entrambi i paesi, che magari di far diventare reato una cosa così non si capisce tanto. Ci sono giornali che hanno fatto un po' più critica e altri che sono stati più tranquilli e hanno informato solo che era entrata in vigore la legge e come funzionava. Tu praticamente fornisci la notizia, sei un'agenzia. E dalla notizia e dai dettagli che tu fornisci poi sono stati pubblicati anche editoriali, sono state pubblicate delle opinioni, delle analisi. Come funziona sull'immigrazione clandestina in Spagna? Non è reato, pure da noi ci sono i rimpatri, ci sono tanti problemi perché noi siamo molto vicino all'Africa, poi ci abbiamo Ceuta e Melilla che sono proprio in Marocco, quindi pure da noi è un problema. Solo che intanto non c'è il reato di immigrazione clandestina e quando si trovano in mare di solito si portano dentro il territorio spagnolo, quindi rimangono in tanti dentro il territorio spagnolo fino alla formalizzazione, immagino, della richiesta d'asilo o della richiesta d'ingresso. Esatto. Ci sono molte similitudini dunque tra Spagna e Italia. Gli spagnoli, quando guardano all'Italia, sentono questa vicinanza culturale? In quali aspetti si sentono vicini agli italiani, in quali aspetti invece si differenziano o ci tengono a differenziarsi? Beh, magari siamo mediterranei, quindi quello sarebbe magari la cosa che più assomigliamo, è quello che ci fa sentire più vicini. Una cosa che adesso ultimamente alla gente fa pensare un po' è il fatto di tutti gli scandali che hanno avuto al centro Silvio Berlusconi. La gente magari non capisce tanto come funziona la politica italiana o come un personaggio politico di queste caratteristiche continua a avere tutti questi scandali. Cioè, magari la politica italiana è una cosa che non si capisce più di tanto. E quanta attenzione vi dedicano i giornali italiani, i giornali spagnoli, scusa? A questo fatto? Sì. Ce n'è stata tanta. Io sono stata in Spagna tipo 3 settimane fa, cioè all'inizio luglio, e praticamente il fatto di Patrizio Daddario, che era le feste, tutto questo aveva diciamo un grande interesse, anche non solo sui giornali o telegiornali, anche sui programmi, sui magazine, tutti questi tipi di programmi se ne parlava, anche si faceva un po' di satira, un così. E prima di queste vicende, su quali aspetti ti concentravi nelle tue descrizioni, nei tuoi racconti dall'Italia? Beh, qua si fa tantissima politica, interessa tantissimo la politica, E poi un po' anche sull'economia, perché adesso ci stanno anche grandi rapporti, tipo il fatto che Enel ha comprato quasi la totalità di Endesa, quindi l'economia è anche un fatto molto importante, perché ci stanno tanti interessi tra Spagna e l'Italia. E poi ovviamente nell'ambito deportivo il calcio è una cosa che interessa sempre. Chiaro, è la grande rivalità tra il calcio italiano e il calcio spagnolo, chi primeggia, quale è meglio. Esatto. Dal punto di vista culturale? Dal punto di vista culturale, qua devo dire che magari facciamo un po' meno informazioni di questa, però per il fatto che siamo un'agenzia, quindi si informa più della vita politica, di ogni giorno, che dell'aspetto culturale. Comunque, tipo tutti i festival che si fanno qua, l'Italia ha una percentuale di monumenti e di arte importantissima al mondo, quindi quello è sempre interessante, però magari l'ultima cosa così culturale che ha interessato di più è stata la presentazione della mostra di Venezia, che comincia a settembre e si terrà tanta attenzione su questo argomento. Ho visto che ti sei occupata recentemente di Piazza Navona, un museo aperto. Sì, infatti noi abbiamo anche un dipartimento che si fanno dei reportage sui posti di Roma, quindi sì, infatti abbiamo trattato anche le statue parlanti di Roma, il Pasquino, poi adesso su Piazza Navona, stiamo facendo anche sulle terme di Caracalla, un po' per far conoscere in Spagna tutti i posti così più importanti di Roma, che magari, vabbè, la Piazza Navona ovviamente è molto conosciuta, però magari le terme di Caracalla non sono tanto conosciute. Non sono così inflazionate, dici, sulle guide turistiche. Invece... Esatto, magari il Colosseo è la cosa che uno, tutti, è un tutti posto nel dove mondo. Non si può mancare, però magari le terme di Caracalla non sono così conosciute, quindi si prova anche a dare un po' a far conoscere questi posti in Spagna. Quindi tu hai il compito anche di raccontare un'Italia che non sia così scontata, anche dal punto di vista degli itinerari turistici. Sono molti gli spagnoli che vengono in vacanza in Italia? Sono tantissimi, tantissimi, però cosa cercano? Io direi che Roma è una delle città più visitate, anche il fatto che ci sono i low cost adesso ha dato anche un grandissimo aiuto a questa cosa, però ci sono tanti posti un po' sconosciuti, magari la Puglia non è tanto conosciuta, anche se ha tutte quelle bellissime spiagge e posti bellissimi. La Sicilia adesso direi che comincia a essere anche una delle mete più importanti per gli spagnoli, però prima si facevano tipo le città più conosciute, Firenze, Venezia, Roma, e sono i posti che quasi tutti gli spagnoli, cioè che quello spagnolo che è venuto in Italia è andato a visitare. Che sicuramente ha incluso nel suo itinerario, nel suo viaggio italiano. E esatto. Poi naturalmente nel secondo, nel terzo o in altri viaggi si cerca di allontanarsi un po' dagli itinerari classici. Sì, infatti. E tu consigli? Abbiamo visto anche articoli sul modista italiano Giorgio Armani, così si apre uno dei tuoi, referenza nel mondo della moda. Dunque anche il Made in Italy tiene tantissimo sulla stampa spagnola. Sì, la moda è sempre un argomento importante, cioè, la moda italiana è uno dei referenti mondiali, quindi infatti è molto importante. Noi abbiamo fatto un servizio speciale per i 75 anni di Armani, e anche quando ci sono altri personaggi illustri che è il suo anniversario, così si fanno anche questi articoli, sempre per questo fatto di provare a dare a conoscere dei personaggi che magari non sono tanto conosciuti in Spagna, si prova anche a farli conoscere. Quali sono i nomi più noti, i nomi italiani più noti in ogni ambito in Spagna, a parte il Presidente del Consiglio che già ci hai citato? Rita Levi Montalcini è conosciuta anche per tutti i suoi lavori, poi adesso in Spagna cominciano a essere anche conosciuti Fini e Schifani per il fatto che si parla tanto di politica, e Bossi è anche conosciuto. E nel cinema, nell'arte, nella letteratura? Cinema... Garone per il fatto di Gomorra, film che hanno avuto anche molto successo adesso in Spagna sono stati Il Divo e sempre Gomorra, scrittori, Umberto Eco. Eulalia, da quanto tempo vivi in Italia? In totale 2 anni e mezzo. E quali sono gli aspetti che ti sorprendono nel bene e nel male dell'Italia? Nel bene che l'Italia è un paese molto orgoglioso di se stesso, quella è una cosa che io penso che magari un po' agli spagnoli manca. Che noi abbiamo sempre pensato che all'estero le cose sono molto meglio, invece l'Italia questo non lo pensa, e sono molto fieri di se stessi, però questa stessa cosa a volte penso che magari non fa accettare qualche mancanza o qualche problema che ha l'Italia. è sempre una cosa in favore dell'Italia, però che a volte può anche fare qualche cosa, cioè può andare incontro dell'Italia. Cioè la tua impressione è che l'italiano sia orgoglioso, così orgoglioso di se stesso da essere miope sui propri difetti, da essere cieco? Beh, magari non cieco, però che a volte fa fatica accettare che ci sono delle cose, come in tutti i paesi, per carità, che non vanno bene. Per esempio, la prima che tu cambieresti? Per me, adesso a livello molto personale, i trasporti. Sì, spiegaci perché. Perché, non lo so, cioè ogni volta che devi prendere un treno fa un ritardo, a me è una cosa che non riesco a sopportare proprio. Io per lavoro, per tutto, devo prendere tantissimo il treno, è una cosa che di solito fanno sempre quei 20, 30, cioè 30 minuti di ritardo. I trasporti, dunque, la prima cosa a cui metter mano. Se tu fossi la nostra Zapatera, la nostra primo ministra, Eulalia Blanchard. Grazie, grazie per il tuo tempo, naturalmente grazie anche per il tuo lavoro, per le tue corrispondenze su EFE, e buona giornata, hasta luego. Grazie a voi, ciao.